Capitolo 44. Venezia, 5 novembre 1551. Un istante dopo. Porci bastardi, amici dei giudei rotti in culo! Uno schiaffo. È finita la festa! Pietro e Demetra, legati alle sedie, tumefatti. Brutto nano di merda, mi voglio divertire prima di vederti arrostire qua dentro. Odore di pece. Entro a passi pesanti. Armi spianate. Il mulo non riesce a girarsi che il colpo a bruciapelo gli fa esplodere la spalla. Stramazza a terra. Punto l'altra pistola. Gresbeck, la sua. Loro sono in tre. Non hanno avuto il tempo di estrarre le armi. Occhi sbarrati sulle canne. Immobili. Con la coda dell'occhio, la borsa, sul bancone. La confessione di Manelfi. Scivolare avanti, prenderla. Ma è Harry che si muove. Lentamente. Lungo la parete. Appoggia la mano sul marmo levigato. Ce l'ha. Un'ombra sulle scale. Dietro di lui. Attento! Si gira di scatto, la lama gli sfiora la faccia, la sua pistola fa fuoco, lo prende in pieno petto, lo sgherro del mulo rimbalza contro i gradini. Quello accanto al camino dà un calcio alla botte, la pece si rovescia sulla brace rovente, una fiammata che raggiunge il soffitto. Mi si lancia contro, lama in pugno, come il morso di un cane sopra il braccio sinistro, urlo. Lo prendo per i capelli, dietro la nuca, mentre perde l'equilibrio e gli sfondo la faccia con lo spigolo del bancone. Le fiamme si arrampicano sui tendaggi, corrono sul pavimento fino ai piedi di Perna e Demetra. Presto, senza badare al dolore lancinante, sciolgo i legacci, libero Demetra. Poi Pietro, sibila tra i singhiozzi, figlio di puttana! Oltre la parete di fuoco vedo Gresbeck estrarre il pugnale, uno contro uno. Quello esita. Henrik sorride, scaglia la lama con uno scatto istantaneo. Un rantolo, il bastardo vomita l'anima dalla bocca. Tossisco. Il fumo ha invaso la stanza. Demetra sviene, la trascino di peso con l'unico braccio. Fino all'uscita, siamo fuori. Una scia di sangue, il mio. La testa gira, le gambe non reggono. Perna tossisce. La borsa, la confessione. Mi volto. Gresbeck non c'è. Devo tornare indietro. Debolissimo, la nausea schiaccia lo stomaco, la vista annebbiata. Respiro profondamente, non devo svenire. Ripercorro i pochi passi fino alla porta. Una distanza infinita. Dalla soglia intravedo la sua sagoma in mezzo alla sala, la borsa in mano. Tra me e lui, una parete di fuoco. Un passaggio stretto, arginato da due tavoli rovesciati. «Di qua!» Un ginocchio cede. La maschera a brandelli del mulo si leva tra il fumo alle sue spalle. Stringe un attizzatoio. Grido, mentre cala il fendente. Cadono entrambi. Non li vedo più. No. Gresbeck si rialza, barcolla. Non ha più la borsa, guarda intorno. Un istante. Quello necessario. A vedergli crollare addosso l'architrave del soffitto.